Europa è Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. Ottobre 2019, la pandemia forse non era ancora tra noi. L'autunno, dall'altra parte dell'Adriatico, si annunciava invece con una doccia fredda. La fumata nera per l'avvio del processo di integrazione dell'Albania e della Macedonia del Nord nell'Unione Europea pesa al veto della Francia. Questo era uno dei titoli di quei giorni. Giuseppe Conte lo definisce un errore storico e non fu l'unico. Un errore che rischiava, diceva, di condizionare appunto gli sviluppi della regione. E allora un saluto da Gigi Donelli, da Alessandro Schirano. Oggi la nostra Europa è quella dei Balcani. Il fronte dell'allargamento, che nel 2007 era stato Romania e Bulgaria, nel 2013 Croazia, poi però la crisi prima del virus, la crisi dell'Europa, la Brexit, lo scetticismo montante, il gelo di Visegrad. In questa parte del mondo, che fino alla seconda metà del XIX secolo si chiamava peraltro Turchia d'Europa e che proprio grazie ai turchi oggi chiamiamo Balcani, l'Europa si gioca ancora una parte della sua scommessa per il futuro. Abbiamo chiesto aiuto ad uno storico e con noi oggi Egidio Ivetic, che è professore associato di storia moderna all'Università di Padova. Intanto, buongiorno professore, grazie di essere con noi. Buongiorno, buongiorno. Allora, il professor Ivetic, perché insomma la storia conta e quindi conta anche i luoghi, è nato a Pola ai tempi della Jugoslavia, ha fatto il servizio di leva nella marina militare jugoslava, quindi immagino Spalato, Bocche di Cattaro, magari il Mar Nero, professore? Dell'Adriatico, ho avuto modo anche di navigare giovanissimo, 19 anni, anche nel Mediterraneo orientale, anche nel Mar Nero fino a Sebastopoli. Ecco, quel mondo lì che per carità è ancora lì, ma è molto cambiato. Allora, tra l'altro segnalo un libro pubblicato per l'editore Salerno Editrice, I Balcani dopo i Balcani, eredità e identità, un lungo percorso appunto in questi luoghi davvero affascinanti e complicati. Peraltro segnalo anche in arrivo un altro volume su i Balcani che sarà presto presente, edito dal Mulino. Allora, professore, la prima domanda riguarda la delusione dell'opinione pubblica delle regioni nei confronti dell'Europa. È una delusione che è stata riassorbita in parte o è qualcosa di ben presente nella mentalità dei Balcani oggi? No, la delusione rimane, è la delusione nei confronti della politica europea. Per quanto riguarda i Balcani non ha una visione precisa per quanto riguarda i tempi, come è successo precedentemente, insomma, quando si trattava di allargare l'Unione Europea all'Europa centrale, un allargamento riuscito già nel 2004, la Romania è un po' anch'essa Europa centrale, quindi 2007, la Bulgaria sono i Balcani, per i Balcani più diciamo centrali, dove le zone sono anche più delicate, un'idea precisa non c'è. D'altra parte c'è un sovrapporsi di problemi politici della distribuzione delle nazionalità che in effetti rende le cose complesse. Partiamo dall'Albania. L'Albania che forse è il paese che ha vissuto il cambio di passo più repentino, era il più chiuso non solo dell'Europa, uno dei più chiusi del mondo. Oggi uno storico come lei lo definirebbe un paese stabile, portatore di stabilità? Sicuramente il paese che era partito molto svantaggiato, l'Albania degli anni 80 era un paese in estrema povertà, era praticamente una prigione, ha avuto degli anni 90 difficilissimi con crisi finanziarie, scontri. La crescita complessiva dell'Albania negli ultimi 15 anni c'è, quindi va assolutamente incoraggiata dal di fuori. È un paese che magari ha sue difficoltà interne, ma ha, diciamo, delle relazioni con gli altri paesi, c'è il Kosovo che è un paese a maggioranza albanese, c'è un terzo della Macedonia settentrionale che è costituito da popolazione albanese, ma l'Albania di per sé non ha grossi problemi con i paesi vicini, come succede negli altri casi. Quindi era un paese assolutamente da incoraggiare sulla strada dell'integrazione europea che peraltro proprio in questi giorni sembra riprendere, staremo a vedere. Lei ha citato la Macedonia che, come dire, è stato l'esempio di quanto sia complicato anche mettere mano ai nomi, ex Jugoslavia, poi per anni è stata chiamata FIROM con un acronimo addirittura, perché la Grecia, non solo la Grecia ma soprattutto la Grecia, non accettava che si chiamasse Macedonia. Solo nel 2018 Tsipras e il collega Zaev fanno breccia nella maglia dei nazionalismi e raggiungono questo accordo. Ora abbiamo la Macedonia del Nord. Ecco, i nazionalismi sono ancora, come dire, attivi e pericolosi nei Balcani? Sì, i nazionalismi ci sono, ma in ogni stato, diciamo, dei Balcani. Però ci sono delle questioni, dei problemi aperti. Ecco, questo del cambio del nome, cioè un paese che arriva al punto di cambiare il nome, arriva al punto di riconoscere la lingua di un gruppo minoritario, anche minoritario per modo di dire, perché ha oltre il 20% della popolazione, e quindi di rendere una lingua minoritaria una lingua ufficiale. Quindi un paese che ha fatto dei passi, anche dei sacrifici sul piano simbolico notevoli per entrare sulla strada dell'Unione Europea, poi alla fine tutto questo sacrificio viene annullato dalla politica di Bruxelles. Insomma, c'è da pensare. Nei Balcani, in questa parte centrale dei Balcani, rimangono tre grossi problemi, sono quelli di inizio Novecento, due periodi, quelli tra la prima e la seconda guerra mondiale e durante la divisione dei blocchi, praticamente avevano congelato questi problemi, e sono: il problema della Macedonia era un problema già nel 1908, il problema della distribuzione della nazione albanese, che è presente non solo in Albania ma anche in Macedonia, e ovviamente c'è il Kosovo, e il problema della nazione serba, che è presente in Serbia ma in Kosovo, una terra importante, simbolica, la culla della civiltà serbo-bizantina, questo è il termine. C'è la presenza dei serbi in Bosnia e Erzegovina, c'è la presenza dei serbi in Montenegro, e quindi tre questioni, la questione albanese, la questione serba e la questione macedone, sono tutt'oggi aperte. Probabilmente come i più intelligenti politici 10-15 anni fa hanno pensato, pensavano di risolvere questi problemi, che alla fine sono culturali, simbolici, abbattendo i confini all'interno di un'Unione Europea. Probabilmente sarebbe stata una soluzione plausibile. Ecco, la strada quindi in realtà non è cambiata. Lei dice l'abbattimento dei confini, come peraltro è accaduto anche, basta pensare, a me viene sempre in mente l'Alto Adige, e come Alto Adige sul Tirolo, e come questi meccanismi di eliminazione dei confini abbiano spento tutta una serie di rivendicazioni. Veniamo in conclusione un minuto sulla Serbia di oggi. Sì, la Serbia ha questa anche posizione geografica, no, della centralità. L'asse dei Balcani è costituito dall'asse geografico Belgrado-Salonicco, quindi si ha il corridoio della comunicazione, tutto passa per la Serbia. Belgrado sicuramente è una città snodo, è l'unica vera grande metropoli anche per certi aspetti. La Serbia anch'essa è in attesa di essere integrata nell'Unione Europea, ma nel contempo c'è una notevole influenza della Russia anche nei mezzi di comunicazione, c'è una presenza crescente economica della Cina, e dunque Belgrado si trova tra queste, tra tutte le possibili proposte, diciamo, geopolitiche su scala globale. Questa è la situazione. La risposta europea anche qui è abbastanza latente alle richieste concrete di una data, di una roadmap per far entrare la Serbia nell'Unione Europea, non è mai stata data una risposta. E nel contempo, come dicevo, rimane aperta la questione dei serbi fuori dalla Serbia, e sono tanti, c'è un metà stato nella Bosnia e Erzegovina che è serbo, c'è una spaccatura in atto nel caso del Montenegro tra i vertici politici montenegrini e la Serbia su questione dei diritti della Chiesa serba in Montenegro, c'è la sacralità del Kosovo per la Serbia, perché il cuore dell'arte e della storia è in quella terra, abitata da albanesi, e quindi la soluzione, l'unica alla fine, che in questi ultimi anni ritorna, è quella della creazione di una zona Schengen dei Balcani, in cui si abbattono i confini, in cui c'è una circolazione economica, ed è il presupposto per appianare l'animosità, che l'animosità ruota intorno a identità nazionali, ma l'identità nazionale vuol dire cultura, storia, civiltà, passato, e nel massimo del rispetto di queste storie vanno abbattuti i confini. L'alternativa, e se ne è parlato in questi ultimi anni, soprattutto nell'ultimo mandato del presidente Obama, cioè fare una nuova conferenza sui Balcani, come si è fatta nel 1878 a Berlino, quindi letteralmente passare a rivedere i confini, ma mi pare un'idea che ogni tanto riemerge, ma veramente drastica. Toccare i confini, un tema ultra delicato, un tema che vede contrarissimo l'Unione Europea, un tema che peraltro in passato non ha proprio fornito risultati di grande soddisfazione. Grazie a Egidio Ivetic, lo ringrazio di essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie. Alla prossima occasione. Adesso abbiamo gli aggiornamenti per chi è in viaggio e poi torniamo per la seconda parte. Europa, Europa. Cambio di governo per la Repubblica del Kosovo, è il sesto dalla nascita del neostato nel febbraio 2008, il terzo negli ultimi tre anni. L'ultimo governo, quello guidato da Albin Kurti, è durato poco più di 100 giorni, sfiduciato dal partner della coalizione LDK, la Lega Democratica del Kosovo, che ora, dopo essere stato legittimato dalla Corte Costituzionale, ha formato il nuovo governo. Allora, la nostra seconda parte di fatto è una continuazione del viaggio. Nella prima parte il professor Ivetic ci ha dato alcuni elementi di quadro e poi di alcuni paesi dell'area. Adesso parliamo di Kosovo. Lo facciamo con Paolo Bergamaschi. Innanzitutto buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e a te. Allora, Paolo Bergamaschi è stato consigliere di politica internazionale alla Commissione Esteri, quindi Unione Europea, Parlamento Europeo, 25 anni se credo di dire bene. Esatto, quasi 25 anni. Molti dei quali dedicati. La memoria storica della Commissione Esteri del Parlamento Europeo. Dedicati molti di questi, non solo, ma insomma i Balcani sono stati al centro del tuo lavoro, dei tuoi interessi. Certo, sono stati la mia priorità in assoluto. Sono entrato in Parlamento lavorando sulle questioni balcaniche e ho terminato il mio lavoro appunto ancora sulle questioni balcaniche. Allora, io vorrei partire da un'altra notizia di cronaca che è sempre arrivata in settimana, quando abbiamo appreso che l'Unione Europea si congratula con il nuovo governo, e va bene. E poi nella parte finale di questa nota dice però: una rapida ripresa del dialogo Belgrado-Priština facilitato dall'UE con il sostegno del rappresentante speciale dell'Unione Lajčak è essenziale per raggiungere una completa normalizzazione delle relazioni con la Serbia. Ora, altrimenti detto, poche ore prima il governo kosovaro aveva sostanzialmente detto che non avrebbe ripreso le trattative perché l'alto rappresentante in questione è di nazionalità slovacca, paese che non riconosce il Kosovo. Però qui non si parla della Slovacchia, si parla dell'Unione Europea. Che succede da quelle parti? No, se posso correggere, non è il governo kosovaro che ha detto questo, è stato il presidente Taci che si è espresso dicendo presidente che della Repubblica, ok. Presidente della Repubblica del Kosovo Taci, che ha detto che non avrebbe parlato con Lajčak, che è l'ex ministro degli esteri slovacco, peraltro, perché proviene da un paese che non riconosce il Kosovo. Così, peraltro, come l'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, Josep Borrell, anche lui Spagna, che viene dalla Spagna, un altro dei cinque paesi dell'Unione Europea che non riconosce il Kosovo. C'è questa situazione un po' paradossale di un'Unione Europea che di fatto fa da babysitter al Kosovo, ha investito ingenti finanziamenti per far crescere il Kosovo, per consolidare le strutture statali, per consolidare la società politica kosovara e quindi la democrazia, diritti umani e stato di diritto da una parte, e nel contempo un'Unione Europea che come tale, che come blocco non può riconoscere il Kosovo, anche perché la questione del riconoscimento di uno Stato è prerogativa specifica dei Paesi membri dell'Unione Europea, per cui ci sono cinque Paesi all'interno dell'Unione Europea che non riconoscono il Kosovo per questioni interne di minoranze e in relazione al fatto che il Kosovo è considerato una secessione dalla Serbia. Ecco, ma se cinque Paesi non la riconoscono, vuol dire che i 22 attuali, degli attuali 27, la riconoscono. Cioè, quello esatto. che mi chiedo è, dalla parte del Kosovo, del Presidente, giustamente mi hai corretto, è una scusa o è un problema il fatto che gli esponenti dell'Unione Europea abbiano quella nazionalità? Ma io ritengo che sia stata una scelta inopportuna quella di avere sia l'alto rappresentante che il rappresentante speciale per il dialogo fra Pristina e Belgrado, entrambi dei due paesi che non provengono, perché non uno dei cinque, entrambi dei cinque paesi. Okay. Sì. Detto questo, a me sembra effettivamente una, dal punto di vista diplomatico, uno sgarbo da parte di della più alta carica dello Stato kosovaro dire questo all'Unione Europea, tenendo in considerazione che se non ci fosse stata l'Unione Europea, di fatto il Kosovo sarebbe naufragato in tutti i sensi, sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista politico. Cioè, stai dicendo che l'Unione Europea ha messo molti soldi sul tavolo proprio della costruzione del Kosovo? Certo, ma al di là dei soldi, in termini di risorse umane, in termini di assistenza tecnica, in termini di sostegno, di puntello ad uno Stato che non esisteva. Quindi l'Unione Europea ha contribuito a plasmare uno Stato e tra l'altro l'Unione Europea ha dislocato in Kosovo la più importante missione comune di sicurezza e di politica estera in questo paese, ricordiamoci. Ecco, l'EULEX è stata messa in piedi dall'Unione Europea. C'erano più di 3.000 persone che lavoravano in EULEX all'inizio nel 2008 e oggi sono più o meno 500 e quindi sta andando in phasing out, sta esaurendosi gradualmente, ma in tutto questo periodo la missione è rimasta in piedi proprio per garantire la costruzione dello Stato la cui capitale Pristina doveva diventare la nuova capitale, l'ultimo stato generato nell'area della ex Jugoslavia. Ecco, a maggior ragione però ti ribadisco la domanda: perché il presidente di questo stato si pone in questa maniera nei confronti dell'Unione Europea oggi? Perché c'è un nuovo attore che è entrato, che prima lavorava di concerto con l'Unione Europea, mi riferisco agli Stati Uniti, ed oggi invece cerca di prendere in mano, cerca di prendere le redini del dialogo fra Pristina e Belgrado. E perché lo fa, visto che almeno noi vediamo l'attualità, pensiamo che Donald Trump, tra elezioni e problemi, inutile citarli, siamo tutti ascoltatori dell'attualità, avrebbe altro di cui occuparsi? Non è così vero, ricordiamoci che comunque le elezioni si avvicinano a ritmo battente, ma non saranno i 2 milioni di kosovari che possono spostare? Negli ultimi due mesi, direi settembre-ottobre, si sarà nel pieno delle elezioni, perché okay. Le elezioni americane ci saranno ai primi di novembre. E perché per Trump è interessato? L'interesse del presidente americano è arrivare a questa campagna elettorale mostrandosi un grande leader mondiale, quindi quello statista di carattura mondiale in grado di risolvere anche i problemi dei Balcani. Trump ha bisogno di un successo in politica estera, gli è andata male con Kim Jong-un e l'accordo sul nucleare della Corea del Nord, non gli sta andando molto bene su questo accordo sottoscritto con i talibani, che però fa acqua da tutte le parti. Il ragionamento dell'entourage di Trump, degli ambienti di Trump, era perché non provarci con i Balcani e quindi con un conflitto sulla carta più facile, anche se è congelato, che è quello che contrappone la Serbia al Kosovo. Per cui ha dato mandato a un inviato speciale, il suo inviato speciale Richard Grenell, che si è buttato sulla questione scavalcando e mettendo fuori gioco almeno per il momento l'Unione Europea. Un'ultima domanda, perché il tempo corre, naturalmente è molto interessante quello che ci racconti, riguarda le frontiere. Nel blocco precedente abbiamo chiuso con questa segnalazione, ipotesi di cambiamento di frontiere. Cosa significa? Cosa deve cambiare? Chi vorrebbe farlo? Appunto, una delle opzioni messe sul tavolo, almeno secondo voci consistenti e insistenti, è quella che nel presunto accordo che Tači, cioè il presidente del Kosovo, e Vučić, il presidente della Serbia, avrebbero già sottoscritto, sul quale si troverebbero d'accordo in un incontro avvenuto a Washington all'inizio di marzo, questo accordo prevede uno scambio di territori fra il Kosovo, cioè fra la parte nord del Kosovo, e un lembo di Serbia, cioè la Valle del Prešervo, popolata dagli albanesi. Quindi si ritornerebbe ai vecchi criteri secondo cui si cerca di definire i confini di uno Stato secondo linee etniche, che è esattamente in contrasto con i valori dell'Unione Europea. Quindi l'Europa è radicalmente contraria a questo? Beh, l'Europa si è pronunciata contro, anche perché significa accendere un cerino in un arsenale, perché i Balcani sono ancora un arsenale, quindi facendo riesplodere ancora tutti i Balcani, creando un vortice in cui potrebbe essere risucchiata ancora una volta l'Unione Europea. La Russia in questo senso perché potrebbe invece essere disponibile a questi sviluppi, diciamo, sponsorizzati dagli Stati Uniti? Perché se c'è un cambio di frontiera nei Balcani potrebbe giustificare anche il cambio di frontiera che la Russia ha già provocato in Ucraina con l'annessione della Crimea. Insomma, i Balcani saranno periferici, non sono più quelli dell'Otto, del Novecento, ma in realtà sentiamo quanto ancora siano al centro di tante dinamiche, anche in paesi piccoli. Nel ringraziarti davvero di essere con noi, lo ricordiamo quanto è grande il Kosovo, credo che sia più o meno come le Marche, come... Sì, poco più, tra l'altro il Kosovo sono 1.900.000 abitanti. Ecco, un'ultima domanda, una battuta, tu che lo conosci bene, si vive meglio in Kosovo rispetto a 10 a 20 anni fa? Cioè le dinamiche di questo paese che è stato al centro appunto delle guerre degli ultimi anni del secolo scorso? No, si vive meglio, ma c'è un problema di fondo, che è l'unico paese dei Balcani a non aver ancora ottenuto un visto, cioè un regime di libertà di visto con l'Unione Europea, per cui è l'unico confinato in un ghetto. I cittadini del Kosovo hanno ancora bisogno di un visto per entrare nei paesi dell'Unione Europea. Grazie davvero di essere stato con noi, Paolo Bergamaschi. Vi segnalo tra l'altro il suo Terre di Nessuno, edito per Edizione Infinito. Grazie ancora Paolo, alla prossima occasione. Grazie a te, arrivederci a tutti i radioascoltatori. E con Paolo Bergamaschi, dunque, Terre di Nessuno, che peraltro appunto si occupa di Kosovo ma anche dell'Ucraina, citata, insomma, di quelle terre che appunto sono contese, grazie a Egidio Ivetic dell'Università di Padova, che è stato nostro ospite nella prima parte, grazie a Nicole Corritore, al gruppo di Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, che si occupa di sud-est Europa, di Turchia, di Caucaso, che esplora le trasformazioni sociali. Vi ricordo sempre ottima lettura sul sito balcanicaucaso.org. Grazie ad Alessandro Schirano, che realizza con me questa trasmissione, a Valeria Bernardi, la nostra regia. Ora GR24 e poi buon fine settimana a tutti voi.